Cantine di Franciacorta. Un saluto da Cologne, dove facciamo tappa per visitare la Cantina Quadra, azienda della famiglia Ghezzi, diretta dall'enologo Mario Falcetti. Parliamo di 42 ettari di vigne e di una produzione iniziata nel 2003 di 110.000 bottiglie l'anno, con un potenziale di oltre 300.000. Azienda giovane, ma con una storia ventennale. Mario Falcetti. Sicuramente questo è un po' il paradosso, ma poi questo paradosso lo si legge nello spessore, nella qualità dei vini. L'azienda è giovane come cantina, nasce nel 2003, ma ha l'anima agricola, l'anima viticola che nasce nel 1990 e comunque in questi 20 anni di vita ha a sua volta acquisito vigne che erano già state piantate precedentemente, quindi un patrimonio viticolo che oggi ha un'età media superiore ai 20 anni. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.